sia olfate. Se con vengiare. Ah, sta bene, l'estate. Amor, dunque non più veder malvato. Io m'obbedisco, parlo. A te giungeste. Prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà passito. O ciel, domani. Beh, domani. Io son felice. L'amor mi dica ancora. Ma quanto, quanto, ma quanto, quanto. Io son felice. Non bramo. Addio. Thank you. Di gioia in gioia, o che scoprirà.